Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Crociani, ma alla fine questi 200.000 euro non ha cacciati nessuno, eh? Che parolai. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. È una giornata, caro Parenzo, in cui io sono molto vicino alle sguattere del Guatemala. Bravo. Alle sguattere del Guatemala. Buonasera, Giuseppe. Ma che fai, il mafioso? Scusa, non ho capito. Ti saluta papà Salvatore. Ho sentito ieri un'intervista molto bella, ti saluta. Stai bene a quella Radio 24? È bella Monterosa, no? Ma che Monterosa? Che via Monterosa? Che c'entra? Non è Monterosa, tutti i giorni vai lì alle 4:30 del pomeriggio. Ma no, veramente vado prima, non è molto informato, signorina. No, il giovedì alle 4:30 vai. Tanti auguri, Giuseppe, tanti auguri. Sono molto vicino, dicevo, alle sguattere del Guatemala per un motivo molto semplice, che in una di queste intercettazioni che sono uscite dell'ex ministro Guidi con il marito, fidanzato, forse ex, Gemelli, quel signore che faceva un po' il faccendiere, diciamo, per conto anche di alcune società petrolifere, insomma, il ministro Guidi dice: non mi puoi trattare come una sguattera del Guatemala. Ora, io questa espressione francamente non l'avevo mai sentita. Mai. Perché, che ne so, non mi puoi trattare come una puttanella, non mi puoi trattare come una serva, no? Non mi puoi trattare come uno straccio da piedi, no? Per andare, no, verso una definizione, quella più comune, forse. Non mi puoi trattare come uno straccio, no? Invece utilizza l'espressione sguattera del Guatemala. Non sapevo neanche ci fossero le sguattere. Io, se fossi nei guatemaltechi italiani, non so quanti ce ne siano, mi incazzerei come una belva. Perché evidentemente, nella sua visione del mondo, l'ex ministro Guidi, che è, come sappiamo, anche titolare di un'azienda importante del nostro paese, cioè il padre, la famiglia, insomma, parla di sguatteri de sguattere del Guatemala. Bellissima questa cosa. Non credo abbiano molti interessi in Guatemala, eh? Parliamo però di Irina, diciamo la verità, parliamo di questa intervista del signor Vespa. Io, che non ho una grande conoscenza con Vespa, non ho grandi rapporti, anzi devo dirti la verità, credo che la moglie abbia messo lo zampino, la signora, credo, Iannini, com'è che si chiama? Sì, Augusta Iannini, abbia messo lo zampino in qualche provvedimento contro di noi sulla storia degli scherzi. Molto bene, fatto bene. Scherzi. Però di queste cose qui non ragione, me ne... No, beh, ha torto, Marcio, no, ha ragione. Vabbè, diamole ragione, tanto che cosa ci costa, diamole ragione, vecchio mio! Allora, credo che abbia avuto un ruolo anche in qualche... provvedimento contro di noi, però nonostante questo non me ne frega nulla e dico: appoggio totalmente Vespa. Sì, fare qualche domandina in più. Sì, amico, si può fare qualche domanda in più, però la Rai, questo fa la differenza, La Rai, che prima autorizza l'intervista, e dopo, per bocca del suo presidente, la signora Maggioni, dice che c'è stata un'intervista da mafioso, addirittura a Vespa un'intervista da mafioso, cioè credo che si riferisca non a Vespa, naturalmente, no? Da Vespa un'intervista da mafioso? No, a Vespa un'intervista, no, da mafioso. Il virgolettato è da Vespa un'intervista da mafioso. Cioè da mafioso il figlio, no? Non Vespa, naturalmente. Sì. No. addirittura dice che bisognerebbe devolvere i proventi del libro del figlio di Rina ai parenti delle vittime della mafia. Una però cosa non lo può decidere lei. Una cosa inaudita. Una cosa, ma no, la libertà, vabbè, può essere un'idea, esiste, ma la libertà personale. Lei. Allora, decidiamo di uccidere i mafiosi direttamente. Uccidiamoli, ma va benissimo. Io sono anche d'accordo. Pena di morte per i mafiosi. Per chiunque sia stato condannato per associazione mafiosa, diciamo che va condannato a morte. Io sono anche d'accordo. Così eliminiamo. Forse diamo un colpettino, no? Cioè, no? Se diventi mafioso, se ti associa alla mafia come il figlio di Rina, crepi, muori. Posso essere d'accordo, guarda, posso anche essere d'accordo. Ma se quello ha scontato, scrivo un libro. Tu autorizzi l'intervista e dopo critichi per farti bella, eh no? E poi io ricordo, caro David, ricordo una cosa. Non mi pare che l'intervista della signora Maggioni al signor Assad. Al signor Assad, te la ricordi quell'intervista? Sì. Vecchio lupo. Amico mio. Come Assad, come l'otti. Dittatore della però. Siria. Dittatore accusato di stragi. Accusato sì. di stragi, omicidi, come tu sai bene. Stragi, omicidi. Certo. Non mi pare che abbia alzato il dito per dire: beh, signor Assad, lei è accusato delle peggiori nefandezze del mondo. Non mi pare. Non mi sembra. Per cui, se la signora Maggioni, quando faceva la giornalista, ha intervistato, peraltro era già presidente della RAI, il signor Assad, non si capisce, senza, come dire, avere messo in crisi il signor Assad, ecco, diciamo così, no? Non si capisce per quale motivo il suo dipendente Vespa, anzi non più dipendente, il suo collaboratore Vespa, non possa intervistare il signor Rina, figlio di Totorina. Sentiamo qualche pezzo, dai. Per lei la mafia che cos'è? Non me lo sono mai chiesto, penso che sia una cosa, non lo so, cioè nel senso non ho una risposta precisa, nel senso cosa sia la mafia. Perché oggi la mafia può essere tutto e nulla. Il traffico di droga, centinaia di omicidi, tutto questo fa parte della storia, non è più un'opinione e non le dice niente. Ma anche gli omicidi e il traffico di droga non è soltanto mafia. Cioè, non lo fanno soltanto i mafiosi. Sì, ma lo fanno anche i mafiosi. Certo, anche, ma non tocca a me dire. Un figlio può giudicare suo padre, ma tenersi per sé i giudizi, non esternarli agli altri. Io il giudizio ce l'ho nella mia famiglia ed è il massimo rispetto che ho per mio padre, mia madre e tutti i miei fratelli. Tutti questi omicidi non hanno scalfito minimamente il suo rispetto per suo padre. Non è questo, signor Beck. Dice: il padre è sempre mio padre, però ha ammazzato un sacco di gente. Come dice il quarto comandamento, onore e rispetto a sempre i tuoi genitori. Però c'è un comandamento che dice non uccidere. Come li mettiamo d'accordo? Sai, i comandamenti o tutti o niente. No, io non li prendo tutti, neanche li lascio tutti. Allora, di fronte a certe, no, però di fronte a certe risposte, anche quella della televisione, no? Stavamo guardando la televisione, forse non li chiede dove, vabbè, ma quello che è. Però è Vespa, cioè c'è un modo che non è quello da PM di fare le interviste, no? Ma di cosa si sta parlando? Vabbè, però ragazzi, il contraddittorio lo puoi creare senza essere un PM. Poi qualcuno dai. Mi scrive: non si possono intervistare queste persone, non deve parlare. Ma chi cazzo l'ha detto che non deve parlare? Questo che vuol dire? Ma dai, su, cioè il solo però fatto ti che dà uno spaccato agghiacciante di è questo... quello, cioè, è quella la storia. È interessante. È già quella la storia. Ma scusami un attimo, ragazzi. Ma adesso il passaggio, hai sentito quel passaggio lì quando c'è dovuto? Sì, ma appunto detto... questa valora però quello che dico io. Voglio quello salutare il mio amico Peppino Grociani. No, veramente forse quello non l'ho sì, sentito. Come non l'ha detto? No, veramente il no. mio amico Peppino. Bella però famiglia. Scusate, ragazzi, tu mi vuoi trascinare su un altro piano. Per una no, volta sì. sono io a trascinare. No, siamo seri, è vero. No, allora, la cosa fondamentale è questa: solo il fatto di sentire sì. la voce del figlio di Rina. Sono d'accordo con come te, parla, come non parla, cosa dice, il fatto sono che d'accordo. Non vuole. Solo questo vale un'intervista. Non rompete però, il però cazzo. Gli si può dire, caro, senza arrabbiarsi, caro Rina, è immondizia che tu non sappia che cos'è la mafia, che tu non la voglia dire. Vabbè, perché ma vuol dire non c'è bisogno che non di fare queste cose. No, ma non è Vespa, ma dai, non sarebbe Vespa. Scusa, ma come non sarebbe Vespa? La differenza è che quel signore lì è stato condannato. Nato però con sentenza definitiva. Ma quello l'ha ricordato, dai. Ecco, su, ma non cioè. È un signore quello, cioè non è semplicemente il figlio vabbè, di Rina. Ragazzi, è un mostro. Ma no, vabbè. Fa parte di una famiglia ma no, di mostri. Ma è una differenza fa non parte da poco, una famiglia però. Di mostri. Si intervistano. Ma non è solo il figlio di vabbè, Totò allora, Rina. Indignatevi, fate il cazzo che volete, indignatevi. No, indignatevi. Una libraia di Catania dice: perché mi rifiuto di vendere il suo libro? Oh, non vende legittimo. Il suo libro. Chi se ne frega, legittimo, non vende il libro del figlio ragione, di Rina. Va bene, non vende il libro, va bene. Che sarà mai? chissà se c'è il Mein Kampf là. Voglio sapere se c'è il Mein Kampf. Vabbè, ma che c'entra? Voglio sapere se c'è il Mein Kampf. Sarebbe come in se quella libreria. Adesso appunto... chiamiamola. Lei ha il Mein Kampf? Beh, ma non c'entra niente però. Dai, su. Grillo dice che si uccide se non si vota la 5 Stelle, eh? Ma scherza, fa il comico o il politico ancora, boh? Grillo. Se non vince, non viene eletto il Movimento 5 Stelle, io m'ammazzo. Anche alle amministrative? Non fanno il sindaco a Roma, se non fanno il sindaco a Roma, la Raggi, io mi do fuoco. Oh, però questa Raggi mi piace perché dà un colpetto alla Boldrini, senti, eh? La Raggi che dice la questione avvocatessa, avvocato, ma che me frega? Scusi, ma avvocatessa o avvocata sarebbe meglio, no? Questo avvocato. No, io mi sono sempre fatta chiamare avvocato, non ho, diciamo, non ho questo tipo di problemi. Ho capito, questo non affiancherebbe la Boldrini nella sua battaglia. Assolutamente, preferisco combattere per cose serie. Cruciani, non mollare, i nazi vegani non vinceranno mai. La Zanzara. Falcone e Borsellino, come ne sa, vengono considerati degli eroi. Lei come li giudica? Io non li giudico, dottore. Cioè, nel senso che qualsiasi cosa io dica sarebbe strumentalizzata. Beh, se fosse un io pensiero positivo non verrebbe strumentalizzata. No, io rispetto sempre per i morti e per tutti, soltanto questo. Parlava del figlio di Borsellino, no? Di Borsellino e Falcone, eccetera. Io direi di sentire Salvatore Borsellino, che è il fratello di Paolo, sì, Borsellino, giusto, che dice, sentiamo, che mi pare incazzato come una bestia dalle cose che leggo, dalle cose che leggo è incazzato come una belva. D'altra come parte, dagli torto. Cioè, Borsellino si incazza spesso, Sì, però come dagli torto in questo caso? Vabbè, perché non è perché detto. Perché il fratello è stato trucidato dal padre di questo signore che continua a dire che era un bravo papà. Ho capito, ma ragazzi, ma come si fa? Ma anche lì, come si fa a dire che è un bravo papà? Ho capito, ma se quello, un papà che ha fatto è un pluriomicida, ma ci sarà un'indipendenza di giudizio o va tutto bene? O no? Non lo so io, ma per carità, poi. Ciao Parenzo. Parenzo, ciao. Ciao, volevo chiedere due cose su quell'intervista. L'hai vista l'intervista di Bruno Vespa? No, ci mancherebbe. Non l'ho visto perché non mi presto a certe operazioni vergognose. Ho scritto anche un post che per fortuna è stato letto da più di 10 milioni di persone. Cioè dici più di quelli che hanno visto la trasmissione? Ma ben di più. Scusami, Salvatore, quindi... Salvatore, quanto sei incazzato? Fammi capire. No, non sono incazzato, sono nauseato. Nauseato che alla televisione, in un servizio pubblico, si dia voce a un criminale, figlio di un criminale, per descriverci una famiglia come se fosse una famiglia idilliaca e come se Rina fosse un padre come tutti gli altri. Beh, a Vespa qualche domanda gliel'ha fatta. Ma Vespa fa sempre le domande, la prima domanda fa Vespa. Avrebbe dovuto fare le seconde e le terze domande. Perché non lo fa? Scusa, ma... Non lo fa perché Vespa io non lo ritengo un giornalista, lo ritengo semplicemente un intrattenitore. Vespa per me è un servo del potere, non è il potere, è un servo del potere. O uno che ossegue il potere di qualsiasi colore sociale. Ma scusa, è pure un servo della mafia, dici? Purtroppo, evidentemente, adesso ha ritenuto che la mafia sia da ossequiare così come fino ad oggi ha ossequiato il potere. Per uno soltanto che cerca di fare trasmissioni che abbiano più audience, per questo si abbassa anche ad ossequiare la mafia. Ha reso sicuramente un servizio alla mafia presentando Rina come una persona come tutti gli altri. Nella trasmissione di Vespa si è fatta semplicemente disinformazione, presentando una famiglia mafiosa come una qualsiasi famiglia in cui c'è un padre affettuoso. Salvatore, secondo te Vespa va cacciato dalla Rai? Se Vespa se vuole fare di queste trasmissioni di questo tipo, che vada in una televisione commerciale in cui poi può fare quello che vuole, in una televisione in cui dovrebbe rendere un servizio pubblico, trasmissioni di questo tipo non dovrebbe esistere, come tutte le altre. Comunque questa roba qui ti fa schifo, diciamo la verità. Mi fa nausea sicuramente. Che intendi fare adesso? Sto per farlo, firmare una petizione in cui si chiede di sospendere una trasmissione come quella di Porta a Porta. Ah, sospendere Porta a Porta. Questo è il secondo caso. Prima c'è stato quello di Casa Monica, adesso questo è il secondo caso, diciamo, in cui dei criminali vengono presentati come se fossero delle persone normali. Cioè sospendere Porta a Porta da subito. Io ritengo che sarebbe necessario farlo. Va bene, ciao Salvatore, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, caro. Ciao, arrivederci, ciao. Comunque ragazzi, al di là di Borsellino, che però dice di non aver visto l'intervista, critica Vespa ma dice di non aver visto l'intervista, al di là di Borsellino c'è una grande ipocrisia in giro, è evidente che tutti quelli che sono pregiudizialmente contro Vespa lo massacrano e vogliono farlo fuori, gli altri invece galleggiano. No, non è solo così, sì, non è solo così, è una lettura... No, ah, è così, sono... dai, quelli che odiano io Vespa... Io ad esempio che non odio proprio nessuno, Vespa non lo odio, non mi... Lo guardo le interviste e vedo quello che mi interessa e quello che non mi interessa. Lì poteva fare, non mi interessa, ma non è così, non è vero. No, ti voglio, poi facciamo intervenire gli ascoltatori. C'è una cosa incredibile che è successa, al di là della vicenda Riina Vespa, che è successa in Parlamento al Senato ieri. Poi succede. Ah. Cioè, al Senato ieri sono stati invitati a parlare di come modificare la legge sulla sicurezza negli stadi, una di quelle rotture di coglioni pazzesca, degli ultra. I signori ultra, tra cui anche un capo tifoso dell'Atalanta che si chiama Boccia, che ha vari DASPO, eccetera. Quel presidente nostro? No, Boccia con una C, no, con due C, Boccia, ah. Non confondere, questo c'ha condanne, eccetera. No, appunto, per carità, non volevo non capire. Quindi... Uno di quelli che l'ha invitato si chiama Cento, sai Cento? Paolo Cento, che tra l'altro non è manco parlato. Detto deputato dei Verdi, conosco tifosissimo della Roma, conosco perfettamente. Senti che dice Cento, Boccia, questo Boccia, vari DASPO, con una C, condanna di 3 anni, tifoso dell'Atalanta. Condanna a 3 anni eccetera e poi anche sorvegliato speciale, cioè non può uscire da casa dalle 22 di sera alle 6 di mattina, è stato invitato in Parlamento. Tu dici vabbè, in Parlamento ci sono vari condannati, dunque si sarà trovato anche a suo agio, magari colleghi, no? Dei colleghi suoi. Senti che dice questo Paolo Cento, incredibile. Senti, si parla del caso del Boccia, ma potremmo citarne tanti altri. È evidente che però erano lì in piena legittimità. In un paese in cui il figlio di un noto mafioso va e viene intervistato in a Bruno Vespa, ieri sera. Era, fatemi dire che veramente è un paese dove parliamo veramente degli ultimi e me delle cose principali. C'è uno che ha una condanna a 3 anni eccetera eccetera, può essere ascoltato come esperto in tema di sicurezza negli stadi, perché non ci dobbiamo stupire poi Riina vada Vespa. Ragazzi, io trovo veramente incredibile. Dai, Mario da Roma, vai Mario. Mario, sì, mi senti? Dimmi. Quella della Maggioni è proprio una pecionata, quella del libro, una roba proprio che non si può sentire in alcun modo. Comunque io non capisco lo scandalo, nel senso che secondo me Vespa ha fatto il suo mestiere di giornalista, il tema vero è che secondo me il figlio di Riina stava nel posto giusto, nel senso che poiché la RAI si regge col pizzo di Stato, il figlio di Riina è perfetto. Tu dici... la domanda è perché io sono obbligato a pagare sta merda. Cioè tu dici, siccome però il pizzo di Stato e il pizzo della mafia è una cosa diversa, anche se uno può chiamare il canone anche se uno può definire il canone un pizzo e alcuni sono d'accordo, una cosa è il pizzo imposto dalla mafia con i fucili, è una cosa o comunque con le minacce, una cosa è una legge dello Stato, dai su amico mio. Sì, dai. Però se non paghi il canone va in galera. Beh, adesso si prevede anche, credo, si prevede anche il carcere, no, che è una follia in alcuni casi. Per un servizio non pubblico, un servizio che io non tu dici era nel posto giusto, perché la RAI si finanzia col pizzo di Stato, pizzo della mafia, pizzo dello Stato, un po' fortina, eh. A tra poco, ragazzi. A me la zanzara non mi piace, mi eccita. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera Millesimato, l'IRP di Infracom Italia, per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Radio 24 Day. È l'ultimo appuntamento con il Radio Day di Radio 24 dedicato ai temi del lavoro. A Pierangelo Albini, direttore dell'area lavoro e welfare di Confindustria, abbiamo chiesto il punto di vista delle aziende sui limiti che sconta in questa fase il mercato del lavoro in Italia. Poche attenzioni a quelle che si chiamano le politiche attive, una spesa molto sbilanciata sulle politiche passive, purtroppo in un contesto congiunturale non favorevole si dedica molta attenzione a questa necessaria azione di supporto all'occupazione, all'occupabilità delle persone. Oggi ne parliamo proprio in un contesto in cui pubblico e privato cercano di dialogare anche col mondo della scuola e della formazione professionale, che sono componenti essenziali in questo processo di modernizzazione del nostro mercato del lavoro. Per Albini le modalità di accesso al mercato del lavoro potranno cambiare con l'avvio dell'ANPAL, la nuova agenzia del governo per le politiche attive per il lavoro. Un sistema di accesso al mercato del lavoro che passa per dei canali informali piuttosto che per i centri per l'impiego. Adesso con l'agenzia si inizia una stagione nuova in cui tutti dovranno essere chiamati a cooperare. L'auspicio che faccio è che si trovi la modalità corretta di una collaborazione nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno. Ed è tutto con il Radio Day dedicato ai temi del lavoro. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Zanzara. Ora se incontrati che mentre mi sto a mangiare un panino con la porchetta con il salame mi ci viene a sputare. Non sai quando causa un culo pigliassi. Allora, caro Davide, ti leggo una mail che mi è arrivata sulla vicenda di Irina, che è molto bella. Un signore, che non si firma, mi ha scritto: spettacolare intervista quella di Vespa, ovviamente. Per chi ha guardato e ascoltato senza pregiudizi, è valsa più di tante grasso boldrinate. Ha dimostrato la diversità antropologica del mafioso, l'impossibilità ad ogni cambiamento e meno che mai al pentimento. Io trovo quello che scrive l'ascoltatore perfetto, molto più delle indignazioni, molto più... Sì, poteva rimarcarlo dicendoglielo proprio, sì, lei non si pente, poteva, ma lei... non poteva. Beh, non mi è parso uno scandalo, non mi è parso un regalo alla mafia, come ha detto il signor Borsellino, che peraltro non ha letto... Lo scandalo è per la RAI stessa, però. Cioè, mi lo scandalo sia... Al di là delle nostre opinioni che valgono quanto quelle... Si è pentita di averla mandata in onda, sì, questo è. Però esatto, cioè al di là delle nostre opinioni che valgono quanto quelle della Maggioni, però lo scandalo lo stanno ritirando fuori loro, mica noi, scusami. Se sì, sì, assolutamente. Perché sì, loro stessi che l'hanno mandata, ora dicono che andava fatta. Quindi sono loro stessi che sono i pentiti veri, sono loro. Sì, anche Grasso che dice non si può banalizzare la mafia, in Rai più rispetto per Rina che per me. Ma sì, quello è il giudice antimafia, è seconda carica dello Stato. Ma ho capito, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Su, ma perché uno deve giudicare... No, ma uno può anche giudicare le interviste, ma allora giudicare l'intervista poteva dire questo piuttosto. Cioè, uno che presenta un libro, il figlio di un mafioso, non può andare, non può essere intervistato da Vespa. Dai, su. Dopodiché l'Italia è anche un paese dove accadono queste cose. Si assenta temporaneamente, senti questa storia, si assenta temporaneamente per ragioni di salute dal suo appartamento, ma quando torna trova una amara sorpresa: una famiglia di marocchini gli ha occupato abusivamente la casa. La Spezia, un uomo invalido, un tale Roberto Bolleri, assegnatario di una casa popolare dove vive dal 2003, stiamo parlando di 13 anni fa. Avendo problemi di salute, qualche mese fa si è assentato per un po' di tempo da casa e al suo rientro ha trovato una famiglia di stranieri che gli ha occupato abusivamente l'appartamento. Ora uno dovrebbe dire: se tu occupi abusivamente un appartamento, dopo un minuto in tutti gli altri paesi del mondo interviene la forza pubblica, la quale ovviamente dice a questi signori: signori, ecco qua le carte, non siete i padroni dell'appartamento, pagate pure i danni magari perché avete sfasciato la porta e tornate da dove cazzo siete venuti. No, non funziona così. Pare che la famiglia di marocchini sia composta da tre minori che non possono essere sbattuti in mezzo alla strada e dunque restano lì tranquilli. Ora questo signore ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, l'unica cosa su cui si può discutere, secondo me, dell'intervista di Vespa è il modo in cui è stata realizzata. C'è stata in realtà, si può dire così, una trattativa, non la trattativa Stato-mafia, una trattativa Vespa figlio di mafioso o avvocati o editori del figlio del mafioso. Questa è una realtà. Perché ha dovuto visionare il signor Riina, ha voluto visionare l'intervista prima di dare via libera. Lo abbiamo preso già ieri noi. Dalle parole di un signore che è l'editore, che si chiama Tricarico. Ecco, questo è l'unico elemento su cui si può discutere. Cioè, c'era bisogno di far controllare l'intervista alla fine al figlio di Riina? Quello dice o così o niente. Vespa ha scelto va bene così, cioè puoi controllare e dare il via libera. Ce l'ha raccontato lo stesso Tricarico, che è l'editore di questa casa editrice che ha pubblicato il libro del figlio di Riina. Vespa non ha mandato preventivamente le domande. Però alla fine, alla fine dell'intervista? Alle fine dell'intervista lui ha preteso e ha ottenuto di guardare tutta l'intervista e di ascoltarla. Siccome non andava tutto bene, ha firmato la liberatoria. Punto. Lui ha ascoltato tutto, ha visto tutto, perché ha visto e ascoltato. E ha dato il suo assenso. E andava bene. Cioè, ha dato l'assenso? Ha dato l'assenso, ha firmato la liberatoria ovviamente, però lei sa bene che senza liberatoria non va in onda niente. Ecco. Mi sembra molto chiaro, no? C'è stata una trattativa Vespa figlio del mafioso, anche lui mafioso peraltro, condannato a 8 anni, una trattativa Vespa. Secondo me c'è stata proprio una trattativa personale tra Vespa o la redazione di Vespa, ma mi dicono del signor Vespa in persona, che è andato lì a Padova dove Riina, e l'avvocato, il figlio di Riina, eccetera eccetera. Lui ha detto: o mi fate controllare l'intervista alla fine oppure no. Poi ci sono alcune versioni che mi hanno raccontato, che però non sono ufficiali, secondo le quali diciamo che ci avrebbe avuto da ridire su qualche passaggio che insomma che poi è stato corretto, comunque non lo so, questo qua ovviamente sono cose non confermate, me l'hanno detto e ovviamente sono voci che girano, però c'è stata una trattativa. Dario da Milano, vai Dario. Sì, ciao, pure a te pare. Anch'io sono incazzato come una iena per questa storia dell'intervista di Vespa, perché siamo in un paese di ipocriti e bigotti. Cioè? Ma per quale motivo Vespa non potrebbe intervistare il figlio di Riina? Ammesso e non concesso che anche il figlio di Riina, io non lo so, sia un criminale. Beh no, allora, è stato un criminale sicuramente, perché è stato condannato a 8 anni che ha scontato per associazione mafiosa. Dunque tecnicamente e formalmente allora, un criminale, allora, ma si intervistano un sacco di criminali, Se li ha ascoltati un cittadino come gli altri. Vespa ha fatto il suo lavoro, lo ha fatto bene perché ha fatto audience. Io non mi incazzo. Sì, peraltro non ha fatto nemmeno questo grande risultato da quel punto di vista. Comunque, parla. Sì, no, ma assolutamente, ma a me lo dici. Io difendo sempre la libertà di intervistare, come se alla Rai non va bene Vespa, lo caccino. se alla Rai non va bene Vespa, lo cacci. Sì, d'accordo. Quello che d'accordo. Noi dobbiamo imparare. E per il resto, siccome. No, ma perché siccome non parliamo sempre. Per la storia di Vespa. Perché cosa? Dimmi. Per la Guidi, che cazzo mi diventa una parte lesa? Vabbè, ho capito, ma quello. Adesso, i magistrati. Lei dice che i magistrati le hanno detto che è parte lesa. Sarà parte lesa. A me di queste cose dell'inchiesta non mi interessa. Mi interessano le conversazioni. Mi interessano le conversazioni. Mi interessa la lobby del petrolio che cerca agganci all'interno del governo. Questo mi interessa. Beh, quell'altra invece col padre invischiato nelle banche, neanche ha avuto il buon gusto di dimettersi. Per questo mi incazzo io, no? Per queste cosa c'entra qui. Questo? Però? Giuliana da Carrara, ciao Dario. Giuliana non c'entra Carrara. Niente. Dimmi Giuliana, dimmi. Ascolta, io sono molto indignata, non incazzata, indignata. Ma perché cosa? Spiegami. Ascolta, non è possibile, cioè non è possibile che una persona, il figlio di Rina, intervenga in una trasmissione dove tutta la gente paga il canone della televisione. Ma qual è il problema? È pieno di condannati che sono stati intervistati da Vespa, a Porta a Porta continuamente. Questo io. Ma però anche noi ne abbiamo intervistati, ma nella televisione pubblica. Certo. Ma lo stesso Berlusconi, tecnicamente, sì. Se vogliamo parlare di persone condannate, pure Berlusconi. Cioè Berlusconi condannato viene intervistato tranquillamente come se nulla fosse. Reati diversi, diciamo. Reati diversissimi. Per frode fiscale, ma è uguale, ma si intervistano queste persone, punto e basta. Adesso non sto paragonando, per carità, Berlusconi arriva. Ma Berlusconi è un leader politico, dai, comunque. Gente come Falcone, Borsellino, si rivoltava ieri sera. No, c'entra, come no? Ma stai scherzando? Ma di cosa stiamo parlando? C'entrano semmai i bellissimi programmi della Leosini, se uno vuole fare un paragone tra generi. Ma sono programmi diversi! C'entra quello. Ma sono diversi! Per me è uno dei più bei programmi della televisione. Scusa, ma che cazzo? Adesso veramente mi fa incazzare su questa cosa qua. Le interviste della Leosini sono un'altra cosa rispetto a una trasmissione come Porta a Porta. Dunque è chiaro che l'intervista è diversa. Appunto, a maggior ragione. Ci mette mesi per costruire una puntata. Per cui di che parli? Sono cose molto diverse. No, dai. Un momento. Giuliana, Giuliana, dimmi ancora, dai. No, ti dicevo, per questo la gente si è indignata, perché Porta a Porta è una trasmissione seguitissima e te non ti puoi abbassare al livello di farmi parlare il figliolo di Totorina. Io non dico che in un altro contesto, non lo so, in un altro momento, in un'altra situazione, non lo so, ma una trasmissione cui la gente guarda Porta a Porta da vent'anni, che non mi può intervistare come Casa Monica, e questa è la seconda volta. Ma che ha fatto persone... benissimo sia con Casa Monica, benissimo. Ascolta, ci sono persone che Borsellino, Falcone, i familiari cosa hanno avuto da dire? Non mi sembra che non abbiano spazio per parlare i familiari e le vittime del terrorismo e della mafia. Non sono sullo stesso piano. Ma come non sono sullo stesso piano? Assolutamente no. Cioè, si usa uso una parola ma che non ti piace. Garbo? Un garbo ma diverso. Dai, su è un'intervista quando uno che ha scontato la sua pena, ragazzi. Non rompete i coglioni. La sorella di Borsellino o un criminale si usa, diciamo, come dire, un intento anche diverso. Infatti non mi sembra che abbia utilizzato lo stesso tono. Dai, fermi là. Zanzara all day long. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Hai ragione, è un pizzo di stato questo, cazzo. Adesso te lo mettono sulla bolletta, quindi non puoi scapparci, E quindi è la stessa cosa che fanno i mafiosi. Arrivano con la pistola nel negozio, non puoi scapparci. Che cazzo fai? Denunci? Allora, poi dice che io sbaglio a definire gli ultra vegani, chiamiamoli così. Hai visto, no? Che cerco di limitare questo argomento, Parenzo, il più possibile, che voglio uscire fuori da questo. Provo a uscire fuori da questo incubo. Da questo incubo. Ma non che... ci riesci. No, ci riesco. Guarda, che è una grande battaglia di libertà, questa qua. Io la perseguirò fino in fondo, quella contro gli ultra vegani, contro quelli che io chiamo i nazi vegani. Però non è che possiamo, come dire, no, fare due ore e mezza fermo, sul veganismo. Fermo, che secondo, è successo avanti? Che è successo? Mi ha scritto tal Barigia su Twitter. Barigia. Mi ha scritto su Twitter. Adesso, ma lo leggerò tra poco. Vai avanti con la allora, ripeto, non voglio fare due ore e mezza sul veganesimo. Però, amici miei, però. Ieri sera mi segnalano che dal programma chiamasi La Gabbia è stata intervistata a non so quale festival o raduno vegano, che poi c'hanno anche i raduni. Diciamo la verità, l'ho spiegato ieri anche a Matrix in maniera molto chiara. E c'è uno che diceva: no, perché in realtà ci sono donne partorienti vegane che stanno benissimo e mettono al mondo dei figli vegani. Cioè praticamente una specie di filiera, capito? Una vera e propria setta. Alla fine questi qua, soprattutto quelli più estremisti, si frequentano tra di loro. Cioè si faranno le analisi del sangue prima o poi tra di loro e vedono: questo qua è vegano, capito? Si arriverà a questo, amici miei, si arriverà a questo. Comunque una signora, una ragazza intervistata, ripeto, durante la gabbia, ha detto che i carnivori andrebbero messi nei forni a Dachau, cioè andrebbero riaperti, sì, sì, ti giuro, riaperti, sì, sì, i forni, visto, non mi ricordo se a Dachau o altrove. È una piccola frase, per carità, detta Monica Raucci, ho visto tutto. Sì, ma è abbastanza tipica di un atteggiamento adesso, perché è sicuramente un estremismo che non si vedeva in faccia, perché era tutta oscurata quella lì, questa ragazzi, signora. Io veramente, ma a me dici ti stupisci? No, no, è la conferma quando io parlo di nazi vegani. Eccola qui la conferma. Sai perché dovremmo riaprire Dachau? Sai cos'è Dachau? Ma non era un campo di concentramento? Bravo, dobbiamo riaprirlo con quei bei forni che ci sono per fare energia rinnovabile umana. Non la cenere che usava il nostro Hitler che la sprecava. Come l'energia rinnovabile umana? Umana, perché ci sono molti umani marci che non servono a un cazzo. Molti umani marci che non servono a un cazzo. Questa è la mentalità. La mentalità, alla fine, molti umani marci che non servono a un cazzo. Lasciamo perdere Dachau. È la mentalità di molti nazi vegani, secondo i quali l'umanità, ieri lo ha ripetuto Rosita Celentano a Matrix, l'estinzione dell'umanità, cioè la Terra sopravviverebbe senza l'uomo, ma con gli animali. E io rispondo: e sti cazzi, e chi se ne frega di questa ipotesi? Cioè non vedono di cattivo occhio l'estinzione dell'umanità, perché l'animale è meglio dell'uomo, è più buono, non fa le nefandezze dell'uomo. Ma io ripeto, proprio perché è diverso e superiore, l'uomo compie delitti, compie le peggiori nefandezze, le stragi, ci sono i pedofili, proprio perché è diverso e superiore all'animale, proprio perché purtroppo ci sono anche le bestie tra gli animali, tra gli uomini. Tra gli uomini. Vabbè, dai, Domenico dall'Aquila, vai. Pronto? Dimmi Domenico, dimmi. Allora, a parte ogni altra considerazione, sull'intervista di Salvo Lima, allora? No, non è Salvo Lima, amico mio, sei rimasto indietro, sai, signor Salvo Lima è morto, non sono d'accordo. Rina si chiama, non Salvo Lima, Rina. No, il figlio Marina, non Lima. Vabbè, allora Rina, ho detto Rina. Vabbè, dunque, allora, a parte ogni altra considerazione, a parte ogni altra, quale, cioè, comunque, vabbè, Rina, comunque due andiamo. Considerazioni sono da fare sì, ecco, mi pare che sia stato già espresso il mio pensiero, amico mio, vai veloce da una persona con l'email là. Sì. Allora, dalle risposte e dall'atteggiamento del figlio di Rina è apparsa con tutta evidenza che cosa è la mentalità del mafioso. Bravo, questo è vero. E chi ha capito, degli ascoltatori che non ne capiscono di mafia, chi ha capito chi è il mafioso, non lo comprerà il libro del figlio di Totò Riina. Quindi Vespa non è da condannare nel modo più assoluto. Va bene, grazie. Michele Livorno, vai. Sì, ascolta, io voglio parlare appunto dell'intervista. Io non l'ho vista, premesso che non l'ho vista l'intervista, però ho visto il telegiornale Gli Spezzoni. Veramente andrebbero fatte 100 volte queste interviste, perché si sa fare cos'è la mafia. Cioè, perfino il figlio del capo aveva paura a parlare male del babbo. Cioè, sono ingessate queste persone. No, ma io ti do ragione, Michele, ti do assolutamente ragione. L'unica cosa su cui si può discutere, ripeto, e poi usciamo pure da questa storia che mi sono rotto il cazzo, è un'altra, cioè quella della verifica dei contenuti, cioè quello del controllo del contenuto. Sì, non so se ci sia stata la trattativa, la grande trattativa tra Vespa. Vabbè, sai, la trattativa quando devi portarti, però, l'ospite, se uno vuole portare essere, a casa, no? Un risultato, esatto. Porta a casa il risultato. Basta in questo non modo. Non calare le mutande, non tagliare l'intervista. Non sappiamo quello che è successo. L'avvocato, l'editore, ci ha raccontato qui alla Zanzara. Ha raccontato che cosa? Che c'è stata una trattativa in pratica su come impostare l'intervista. Questa intervista è stata fatta, è stata controllata, non ci sono state domande preventive, è stata controllata da Arina e immagino anche dal suo avvocato o dall'editore stesso, e alla fine non ha dovuto toccare nulla il figlio di Arina e ha dato il via libera all'intervista. Dunque gli andava bene, l'intervista gli andava bene, evidentemente sarà stato soddisfatto dell'intervista. Questa è l'unica cosa su cui si può discutere, cioè il fatto che il controllo successivo, però che dobbiamo fare? Voleva portare a casa il risultato, Michele? Nazi vegani. Come? Una cosa sui nazi vegani. Dimmi, che dimmi, sono dimmi. Pericolosi. Allora, dalla storia, dalla preistoria, quando qualcuno, delle persone, si sentano superiori all'altri, è l'inizio dei genocidi. In tutte le dittature, in tutte, sia religiose che politiche, quando qualcuno si sente superiore all'altro, iniziano le peggiori, diciamo, genocidi. Va bene, grazie. Dittature. Alessandro, Roma, vai. Pronto? Dimmi. Pronto, ciao David. Ciao, caro. Pronto, David. Ma che fai? Chiami David e non mi nomini nemmeno? Non ho capito. Volevo parlare con David. E parla con, posto, sì. Parla con David, David. Poi peraltro è David. Ma comunque, David, comunque scusa, guarda, David, io con lei non sono... Ti do del tu, scusami. Con te non sono d'accordo su molte cose. Quando parlo magari di politica generale, di finanziamenti pubblici ai partiti. Sì, di... sì, chiaro, vabbè. Di tante cose in generale. Però con lei sono d'accordo su una cosa e le do il sostegno. Quando difende... tra virgolette gli attacchi di Cruciani che portano su, che è un becero populismo che porta solo alla xenofobia contro l'Islam, là sono d'accordo con lei perché molto è bene, questo molto bene. Ma siamo in tanti, cari, sono perché siamo sono in tanti, siamo numerosi, questo siamo populismo tanti. Che poi vanno appresso a Cruciani, tanti coglioni, non dico che Cruciani è un coglione, ma vanno appresso a Cruciani tanti coglioni che sono razzisti, che sono razzisti, e gli viene data voce. E questo non va bene perché siamo tanti, come resiste, con i nazi siamo vegani tanti. Viene fatta di tutta un'erba un fascio, la stessa cosa viene fatta per quelli che della religione dell'Islam. Ti sei sfogato o no? Ti sei non sei sfogato, hai dato un'opinione. L'Islam è una religione che contiene, che contiene al suo interno germi allora, di odio. E allora bombardateli odio. Tutti. Non, allora non puoi dire, non puoi, quando c'è stato il genocidio degli ebrei, si diceva la stessa odio. Identica cosa, si ma di diceva che? La stessa del cattolicesimo, identica cosa. Di che cosa? E sono questi focolari che portano i alla focolari, xenofobia. Sì, quelli sono i focolari. Sì, sono questi focolari che portano alla xenofobia, sì? Questi focolari, vero, queste vero, pseudo-battaglie che porti avanti tu, Cruciani. Vabbè. Che becero populismo. Va bene, becero populismo, hai ragione. Centinaia di coglioni che ti seguono sì, e ti danno ragione. Ma hai sentito che dicono quelli che chiamano? O i commenti che scrivono su Facebook che sono gli stessi che chiamano? Tu chi sei per giudicare? È una vergogna. Sì. È una vergogna. Non, io non so nessuno per giudicare, ma quando uno scrive andrebbero ammazzati così. Bravo, è giusto. Capito? Vanno fermati, vanno fermati. Vabbè, Alessandro, abbiamo capito, dai. Rocco da Livorno, vai, Rocco. Rocco? Buonasera, ci senti? Sì, ti sento, dimmi. Ciao, senti, volevo cambiare argomento un pochino e parlare del... di quel signore che ha chiamato l'altra sera, ieri sera, sì? Si parlava della sua prostatite, del suo problema... La prostatite, questo mi interessa molto, la prostatite, sì. La prostatite. Anzi, devo dire una cosa, devo dare una notizia incredibile. Ho letto oggi, Parenzo sarà contento, che la Francia, che io la ricordavo come la patria dei diritti, delle libertà, eccetera, vuole punire con una legge nazionale, con una multa da 1.500 a 3.500 euro, se non sbaglio, i clienti delle prostitute. Non è la prima volta che viene avanzata questa proposta, ma in Francia, la patria dei diritti, della libertà, e vogliono mettere una legge per punire i clienti delle prostitute. Ma i francesi, cioè la libertà, non c'è manco più la libertà di scopare. No, la libertà non è cancellata, no, vogliono cancellare in Francia la libertà, la libertà di scopare. Questa no, è la realtà. Vogliono cancellare no, il no. lo sfruttamento. Io posso scopare la con chi mi pare. Io sì, devo essere libero di scopare con basta chi voglio. Basta che non sfrutti, altrimenti ma non mi interessa, io quando vado da qualcuno non gli chiedo se è sfruttato o no. E i francesi una vergogna, posti il problema. Bene, una bene, vergogna bene. Assoluta. Vabbè, Rocco, che vuoi? Io in realtà a questo punto volevo ribaltare il discorso e anzi, essendo uno studente di medicina all'ultimo anno, volevo dire che forse ci dovrebbero essere delle agevolazioni sì? per i signori che hanno problemi alla prostata e che quindi potrebbero trovare giovamento da un'attività sesso. Sessuale più intensa. Quindi bravo, magari bravo, mi sembra come prescrizione giusto. Medica all'attività sessuale. Mi sembra molto giusto. Una prostituta potrebbe essere una medicina migliore di tanti farmaci che poi hanno effetti collaterali. Mi sembra giusto, male. Cioè agevolazioni per andare a prostitute. Mi sembra molto buona come proposta, potrei condividerla, caro Parenzo. Non avevo dubbi. Agevolazioni per andare ci manca a prostitute. Solo quello, ci mi manca solo ottimo. Quello. Ah, Crucia, certo che sei proprio uno stronzo. La Zanzara. Abbiamo scoperto nei giorni scorsi, caro David, che esiste anche l'asilo vegano a Milano, ma io dico subito una cosa: chi vuole mandare i propri figli all'asilo vegano li può mandare tranquillamente, non me ne frega niente. Grande libertà da questo punto di vista, grande libertà. Poi, se li fanno crepare, se succedono dei casini, si assumono la responsabilità di quello che fanno. Se uno vuole nutrire il proprio figlio in un altro modo, è liberissimo di farlo. Però ti faccio sentire alcune cose straordinarie di quello che avviene all'interno di questo asilo vegano, la dieta vegana. Oggi mangiamo la quinoa con le verdure, domani mangiamo burger di lenticchie, dopodomani invece mangiamo il farro con la crema di cavolfiore, una volta a settimana mangiamo il passato di verdure e a volte ci conquistiamo con la pizza. A volte ci conquistiamo con la pizza. Perché non danno la dieta vegana anche agli immigrati? Anche ai migranti, eh? Beh, perché? E i nostri pupazzetti sono pupazzetti in stoffa con dentro noccioli di ciliegio piuttosto che di noci oppure di pula di miglio. La pula di miglio, la pula di miglio, meraviglioso, la pula di miglio. Mi scrive tal Bargigia, allora, che non capisce improvvisamente. Su. Però diciamo chi è, Bargigia è un giornalista sportivo, diciamo, di media, senza la gente non capisce. Signor Bargigia, sì, no, ma tu hai detto famosissimo Bargigia, per carità. No, dimmi. Signor Bargigia mi scrive: David Parenzo, esperto dello sproloquio senza contraddittorio, leone, deontologicamente corretto, chiocciola Cruciani, chiocciola Zanzara. Ma chi è lei, signor Bargigia, scusi? Chi è? Che dice Bargigino mio? Ha criticato Vespa perché secondo lui non si fa la trattativa per fare per un'intervista. Bargigia critica Vespa. E vabbè, potrà criticare Vespa o no Bargigia? Topolino sulla luna. Bargigia versus Vespa. Senti, lo sai che esiste il libro delle favole vegane? Esistono delle perle assolute. Però vabbè, ma questo è tutto legittimo. Il libro delle favole vegane, amico mio! Il libro di favole vegane! Ma poi dici che non è una setta. Il libro delle favole vegane. Mai, cioè, esiste una signora partoriente vegana che l'ho detto ieri, uno che partorisce un figlio vegano, cioè già sanno che è vegano. Come fa prima? Che cazzo, perché decidono prima che è vegano? Sì, partorisce un figlio vegano, al quale vengono raccontate delle favole vegane. Poi dice: no, non è una setta. No, no. Lupo Pupo e Salvatore il cacciatore diventarono amici per la pelle e spesso si riunivano per fare festa e per ricordare insieme questa bella storia, che è la vera storia di Cappuccetto Rosso. Quindi esistono anche favole vegane? Certo. Finalmente tutti vissero felici e contenti, nessuno mangia nessuno. Andate a fare in culo! Andate a fare in culo! Ve lo posso dire, andate a fare in culo! Mi pare che tu te lo stai dicendo. Ma è una cosa incredibile, le favole vegane. Siccome non c'è... Ma perché vai ai matti? No, ma vado ai matti. Io con le sette vado ai matti. Ma vado ai matti anche con un'altra cosa, caro Parenzo. Si è scoperto che esistono anche dei negazionisti dell'AIDS. Quelli che dicono che l'AIDS non esiste. Tra questi, professore, uno che non è nemmeno medico in realtà, Aldo Vaccaro. Pronto? Vaccaro, sono Cruciani, salve, buonasera. Buonasera. Volevo capire, veramente lei pensa che l'AIDS non esiste? No, ma glielo dico con... 1000% non esiste. L'intera medicina americana... Sì? Tutto? Sì. Stava crollando economicamente. Sì? Perché crollava? Perché avendo fallito quella lotta sul cancro, erano venute a mancare tutte le fonti di sostegno, e serviva una carta da giocare, e loro avevano nel cassetto da tanto tempo dei disegni di questa malattia da inventare, da lanciare. Ne hanno ancora, Scusi, ma allora lei sta dicendo che l'AIDS è un'invenzione delle multinazionali? È una invenzione della CDC, che sarebbe il Central Disease Control, che è un ente americano dominato dalle multinazionali, dominato dalla medicina e quindi da certe multinazionali. Sì, se vuoi. Scusi professor Vaccaro, io la seguo nel discorso. Dunque, mi sta dicendo che i malati oggi, i malati di AIDS, di cosa sono malati? Allora, i malati di AIDS sono malati praticamente di esaurimento, di esaurimento. Ah, sono malati di esaurimento. Esaurimento. Sì, che vuol dire? È gente che ha il sistema immunitario alterato. AIDS vuol come dire mai? E dunque? Immunodeficienza in pratica, no? E dunque? Ecco, dunque. Dunque non vanno trattati con i farmaci antiretrovirali, quelli ufficiali? Assolutamente no, quelli adesso a parte li hanno un po' attenuati, se vogliamo, no? Ma azitrine e tutte queste cose qua sì. hanno sempre ammazzato la gente più che Beh, veramente i dati dicono che hanno salvato un sacco di gente questi. No, beh, i dati pubblicati con grande. Ma per cui scusi, ma quando dicono che l'AIDS, come è vero naturalmente, come credo che sia vero, si prende per esempio con la trasmissione sessuale, non è vero? Non è vero niente, non si prende niente perché intanto non puoi prendere qualcosa che non esiste, scusa. Allora, cioè se uno va in Africa, va a prostitute in Africa, per lei potrebbe andarci anche senza preservativo? Ma per forza che sì, voglio dire. No, ma scusi, però adesso uno va in un bordello in Africa, uno va in un bordello, cioè consiglia a qualcuno, usa il preservativo, no, è uguale. Serve non solo il preservativo, se tu hai paura della tua partner, sì. Serve triplo preservativo. Cosa c'è? E serve però... addirittura, non basta nemmeno però, serve anche lo scafandro, va bene? Però scusa, tu ma dici... Ma professore di aspetta, cosa aspetta, questo aspetta. Qua? Per va le malattie bene, non serve, bene. Per aspetta. Le malattie non serve il preservativo. È un fatto suo, personale. Però non ha niente a che fare con la scienza, tu dici, se uno invece ci va senza preservativo sicuramente non può prendere l'AIDS. L'AIDS non si prende perché non esiste. Ma che tutti l'epidemia di AIDS in Africa, che è tutto inventato, queste persone intervistate. È tutto inventato. Tutto un imbroglio, ma l'avete tutto. Capito o no ancora? Io non riesco a capire perché è un imbroglio. Voi vi accontentate delle verità confezionate. Ma di cosa sono malati questi qua? Se uno viene da te e ti dice io ho l'AIDS, tu che cosa gli dici? Lo guardo e gli dico, tu non sei un tubo, sei più che immunodeficienza, sei deficiente te a credersi. E va bene, gli dici questo e lui ti porta le cose, le cartelle cliniche, dice, l'HIV, che devo fare? Quali sono le indicazioni, cioè, che dai tu? La vitamina C, gli antiossidanti, che ne so? Esattamente, allora, siamo tutti un po' immunodeficienti. Abbiamo tutti un po' di AIDS, volendo, no? Sì, se vogliamo parlare in quei termini lì, va bene. Sì, no, ma che cazzo dice? Immunodeficienza significa non, per esempio, prendere farmaci. Un po' di stress, diciamo, no? Anche. Dunque, la cosa migliore quale sarebbe? Vabbè, antiossidanti, vitamina C, poi? Antiossidanti, sì. Quindi riposare, prendere il sole, respirare bene, sole, certo. Poi? Sicuramente cose. Gli dici, interrompi immediatamente le cure con gli antiretrovirali. Per forza, va bene. Manco una febbre vi farei curare da questo signore. Capito, Vassallo? Febbre. Mi dà il radicchio, ma per forza, ma neanche la febbre va curata. Sì. Come ha detto il grande Parmenide, datemi una febbre alta e saprò farne mirabilie. Va bene? Fate è morto. Mirabilie è morto. Un po' in testa questo. Se avete solo cazzate nella testa, come io, quello che nel dubbio, prendo l'aspirina. Tu mangia le ortiche. Allora, secondo questo signore, il professor Baccaro, potete tranquillamente andare in Africa, nei peggiori bordelli africani. Omen, professore. E trombare una signorina là presente senza protezione. Ovviamente non è quello che vi dico io, naturalmente, cari ragazzi. Senza alcuna protezione, senza controllo sanitario. La Zanzara è un programma della Madonna. La Zanzara. Giornata di merda, 100 chiamate, 80 messaggi, 200 email, non va più niente, però alle 6:30 io accendo Radio 24 e trovo la Zanzara, tutto passa, ora sono carico come un missile, vado a giocare a calcetto e spacco le gambe a qualcuno pensando sia Parenzo. Parenzo, io ti odio. È bello quanto attiri l'odio, è bellissimo. Io adoro quando qualcuno mi odia. Sì, sì, sì. È stupendo quando qualcuno mi odia. Tu non sai i messaggi di morte che mi arrivano da Napoli. Beh, la gente diventa pazza. Basta scrivere piagnisteo napoletano. Anzi, ho detto napoletano per questa storia del calcio, no? Per Higuain, il piagnisteo continuo. E la gente si scatena. Messaggi di morte, ti vogliamo ammazzare. Stamattina sono andato dai gentili amici della Digos per altri motivi. Ho detto, ma sì, mi devo preoccupare. Ho fatto leggere qualche mail, ma mi dicono i signori, la dico, guarda, controlleremo naturalmente, no, sono andato per altri motivi, non per questo, ma la maggior parte mi dice, uno bravissimo esperto di stadi, sì, dice, la maggior parte di questi qua fanno così sulla tastiera, stanno così, poi se la fanno sotto, capito? Speriamo. Allora, ha fatto molto discutere, almeno su alcuni quotidiani sportivi, una frase detta dal commissario anticorruzione Cantone durante il programma di Minori qui su Radio 24. L'interpretazione che è stata data è questa: la Juve ha avuto un regalo con l'espulsione, cioè la squalifica di Higuain. Allora, uno può discutere, regalo, naturalmente. Esatto, la parola regalo. Sì. Che il commissario anticorruzione dica che c'è stato un regalo, in realtà si riferiva a Minoli, tifoso della Juventus, amico mio, commissario poi perché si deve esprimere sul commissario calcio parlano tutti, persino bene. Bargigia, quindi voglio dire, Bargigia si occupa di calcio, che vuol dire? Si occupa di calcio. Sì, si occupa di il calcio. Il Gulliver del giornalismo sportivo. Dai, su, ma il lascia Gulliver. Perdere. Comunque il Gulliver del giornalismo. Mi faccio sentire questi sì. Allora, persino il commissario anticorruzione, come diavolo si chiama, parla da tifoso del Napoli di quello che è successo, Allora io dico una cosa, se tu parli di favori alla Juventus, uno può pensare che tu sei il commissario anticorruzione e dunque che la Juventus è corrotta, no? Uno potrebbe immaginare questo. Beh, sì, certo. Nella discussione che si fa sul la calcio, logica così vuole. Nella discussione che si fa sul calcio, di solito non è la zanzara, il signor Cantone, la benzina sul fuoco. Sono molto tifoso. Molto tifoso, senta, anch'io della Juve, però. Senta. Questo non mi fa piacere. No. Senta. Anche perché ha avuto un altro regalo, la squalifica di Higuain. Un regalo, non era giusta, lei non l'avrebbe squalificato? Io l'avrei squalificato perché Higuain è un grande campione e deve comportarsi da grande campione. Io credo che sia, fra l'altro, un cioè, esempio positivo. Cioè, lei dice positivo. Che quattro giornate sono troppe. Una. Due. Bastava una. Due. Grazie. Con la Roma ce lo devono ridare. C'è qualcuno ieri ha detto c'è una campagna in corso per la riduzione della squalifica di Higuain. Beh, amico mio, certamente no, io non credo che ci sia una campagna, però ci sono molte pressioni per la riduzione della squalifica di Higuain, molte pressioni, ma ti faccio ascoltare la memorabile battaglia in radio dal signor Auriemma tra Auriemma e Bargigia. No, che Bargigia, tra Auriemma e come cazzo si chiama? Buon anno, vai. Ma era una battuta, tutto, mamma mia, ma perché siete così? Ma era una battuta. Ma così come? Ma così come? Dobbiamo accettare la tua ironia così, gratuitamente, tu che sei un eurodeputato, quindi ci dovresti rappresentare, anche noi napoletani. Dobbiamo accettare questo. Ma ho capito, ma no, ma che accettare, ma che cosa vuol dire? Ma non è che di essere napoletani e chissà che cosa di offensivo, era una battuta per dire se ma non la puoi fare, calcio, sono un eurodeputato, capito? Dovresti, ma cosa vuol dire? Sono anche un tifoso, no? Dico una cosa così. Bravo, cosa, e allora tifa per la tua squadra, lascia perdere Higuain. Fai razzista, offendi, e poi dici ho fatto una battuta. Ma che razzista, ma che cavolo state dicendo? Ma no, hai ragione. Siete ridicoli a fare così. Siete così, siete dei ridicoli. Grazie. Perché volete sempre fare le vittime. Siete dei ricchi, ma quale vittime? Ma non le sanno più. Allora, pensate sempre Napoli, la città più bella del mondo. Noi siamo le vittime quando non hanno più argomenti da utilizzare. Viva la pizza, viva il mandolino, va bene così. Eccolo qua, bravo. Sì, sì, la pizza, oh, il più di sì, come sì. No? Vabbè, non lo so io. Se uno fa una battuta, che cavolo è? Un cavernicolo, Bonanno. Tu sei rimasto a metà della pietra e non ti sei accorto che il mondo sta andando avanti nonostante te. Non te ne sei accorto. Perché e forse Higuaino se ne è accorto che la Juve è più forte del Napoli. Higuaino se ne è accorto che la Juve è più forte del Napoli. Higuaino se ne è accorto che non deve mettere le mani addosso all'arbitro. Allora, ricordo che Bonanno ha detto... Devo dire che è una sfida tra titani lì, eh? Se lavorassero dei cervelli come... che si scontrano. Adesso, Aurema è d'accordo con te su questo cavernicolo, gliel'hai detto mille volte anche tu. Se lavorassero come piangono, non ci sarebbe neppure un disoccupato ai napoletani, signor Bonanno. Bonanno. Ragazzi, andiamo. Sergio da Monza, vai, Sergio. Pronto? Dimmi, Sergio. Ciao, mi senti? Vai, vai. Io volevo intervenire a proposito della cosa che scusa, il pietone, ero a fare jogging. Stavo intervenendo sulla cosa di cui hai parlato prima. Dove sei andato a correre? Un parchetto vicino a casa. Quanto hai fatto? Per ora 1,5 km. Allora fermati un attimo, anche se non va bene fermarsi mentre uno corre. Comunque. Oppure continua a correre piano piano. Scusate, però. Ragazzi. Continua a correre piano piano, allora, piano, leggermente. Corri, corri, leggermente. Io vi chiamavo perché... Oh, corri! Inizialmente ero niente, non incazzato. Ma non sono incazzato, direi che sono praticamente... Oramai ha assuefatto questa notizia, ok? Ma quale notizia? La notizia degli immigrati... Ma stai correndo oppure no? Sto correndo. Ah, ok, bene. Degli immigrati che occupano le case di un anziano che va a fare la visita medica, ok? Tornano e non li si può buttare fuori perché hanno figli piccoli, figli minori. Sì, okay? Sì. La Spezia, allora, sì. Io vi riporto una notizia, una cosa vissuta di prima mano. Carissimi amici di famiglia, attività... Non vi faccio ovviamente nessun tipo di riferimento per ovvi motivi, attività floridissima. Nel giro di 12 anni sono andati a puttare, falliti. E vabbè, okay? Succede, okay, però, hai di fallire. Succede. La questione qual è? Che quando tu fallisci, gli è andato all'assa praticamente tutto. La situazione umana tragica in cui si trovano sono i due genitori ultra-ottantenni e un figlio che è portatore di handicap. Allora, quello che io dico è... E mi dovete spiegare, soprattutto Parenzo, che immagino già prenderà una posizione diversa dalla mia. Allora? A queste persone è consentito entrare in casa, visionare comunque, quindi, come dire, con tutto quello che ne consegue a livello psicologico, ma è naturale nell'ordine delle cose. Allora? Visionare la casa, venderla, metterla all'asta e buttarla in strada con un figlio handicappato. Vabbè, okay. Però questi qua è un caso particolare, Sergio. Qual è la considerazione? Tu ci stai raccontando un caso drammatico, l'abbiamo capito. Ci sono tanti casi drammatici in Italia: gente sfrattata, gente buttata fuori, gente che non si può permettere un appartamento. Lo sappiamo. E allora? Ascoltami, io sono ovviamente d'accordo con te, ma queste sono persone che non sono abusive, che hanno pagato le tasse, ne hanno pagate tantissime fino a poco tempo fa, fino a che sono stati in grado di farlo. Poi avranno fatto le cazzate più grandi del mondo, sono falliti. Io non entro nel merito della questione. Vabbè, ma che c'entra adesso questo? Spiegami, che c'entra? Perché non abbiamo un metro di paragone, non abbiamo un peso. Cioè tu stai dicendo, mentre gli immigrati, il solito discorso, mentre gli immigrati... Ma voglio dire, io non ne sto facendo un caso. Se queste erano persone che avevano diritto a una casa e sono immigrati che ne hanno diritto e hanno figli minori, mi va benissimo. Ma io sono la persona... Ma non hanno diritto, l'hanno occupata quella casa. Ma l'hanno occupata. Devono andare fuori a calci nel culo. Devono andare fuori a calci nel culo dopo 3 secondi. Non c'è dubbio. Sergio, sono d'accordo. Però non mi fare il paragone. Scusate. Ci sono italiani che hanno perso il lavoro, disoccupati. Bravo, che non... Bravo, meno male. Cioè, è una cazzata, dai, sono due cose diverse, dai. No, diciamo, allora io dico una cosa, che c'è una grande attenzione verso quelli che arrivano, che vengono, come avete visto, come avete saputo nei giorni scorsi, rifocillati. Non è una grande attenzione, è un dovere, non è una grande attenzione. Gli immigrati fanno audience. È una scelta, è una scelta. Non è una scelta, è un dovere. Va benissimo, ma io non sto dicendo che loro dovevano rimanere. Sergio, ho capito benissimo. Sergio, okay, grazie. Ciao. Ivan, provincia di Massa, vai. Pronto? Ivan? Niente. Fabrizio, Roma, dai, Fabrizio. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io sono per l'intervista. Qui il tema non è sì, è giusto non fare l'intervista, ci mancherebbe, va benissimo, però è anche come la fai l'intervista, esatto, con obiettivo dei poni, se fai l'obiettivo fai no, guarda, allora, no, ragazzi, esatto, non diciamo puttanate, no, non, diciamo non cominciamo a giudicare il modo in cui si fanno le interviste, perché ci sono mille parametri, ci sono mille parametri, perché se tu mi stai parlando dei valori che ti ha insegnato tuo padre, se il figlio del mafioso sta in televisione, io ti dico, caro mio, che tuo padre ha fatto ammazzare un ragazzo di 8 anni, sta domanda te la faccio, l'ha fatto sciogliere all'acero, mi dici che cosa pensi di questo, sta domanda te la faccio, perché se non te la puoi far fare, vabbè, adesso è arrivato quello che avrebbe fatto la domanda, invece Vespa non è capace di farlo, ma chiamato, che cazzo per fare intervista così, che gli piace a lui, fammi capire, l'intervista che piace a lui, che cazzo gli ha per sfortuna vostra, per sfortuna, per allora hanno ragione quelli che dicono non pago il cazzo, se invece vogliamo capire la mentalità mafiosa, e becchi pure le domande che non ti piacciono, figlio mio, come si fa con tutti, perché Grasso c'ha ragione, il senatore, ci io firmo prima che mi fanno l'intervista, se tu chiami Renzi e lo intervisti non è che prima gli dici ti faccio le domande, ti faccio questa domanda, mi risponde, certo, Presidente, no, mi risponde, certo, non la faccio, ma che stiamo a fare? Ma che stiamo a dire? Ma allora, cioè, quello, il modo, la trattativa quella che c'è stata, è l'unica cosa di cui si può certe risposte, allora non te la faccio l'intervista, ma chi e quello invece, quello invece, scusa, stai calmo, quello voleva ottenere un risultato, che era quello di avere la voce, il volto del figlio di Rina in televisione. Ci è riuscito, secondo diversi ascoltatori che ci hanno chiamato, ha ottenuto anche un risultato, che è quello di far vedere l'omertà mafiosa. Non è che ce ne fosse bisogno, però comunque l'abbiamo visto raffigurato nel volto, nelle parole del figlio di Totò Riina. Non mi sembra un cattivo risultato. Tutto il resto sono chiacchiere. Tutto il resto sono chiacchiere. Parlo con Radio Merda. La Zanzara. Sono vegetariana da 2 anni, ma a furia di sentire parlare vegani mi è tornata voglia di carne. La loro! Caro Parenzo, domani 8 aprile 2016 è in programma sotto questa radio, abbiamo appreso da internet, una manifestazione indetta dal Partito Animalista Europeo contro l'inciviltà di Giuseppe Cruciani. Cioè un momento, ho sentito la parola manifestazione, meraviglioso suono nelle mie ormai anziane orecchie. Ci sarò anch'io domani a contestare l'immondo Cruciani e tutta la struttura eversiva della cosiddetta Radio 24. Istruzioni agli strumenti, istruzioni ai protestanti, istruzioni. Portare zainetti con all'interno spranghe e bastoni e caschi da tenere pronti. Prendete anche delle bende da mettere negli occhi. All'inizio, quando sarete lì davanti, tenete le mani alzate dicendo siamo senza niente. Le seconde file, tecniche di guerriglia insegnate alla radio. Le seconde file, Rizzi, prontamente ascolta, Rizzi, mentre ascolta. Questi sono davanti a mani fintamente nude, quelli dietro, le seconde file, testuggine facta, come dicevano i romani, sguaino le spade, tirino fuori i sassi e comincino a prendere a sassate questa cosa che si chiama Radio 24. Io sarò lì con voi, ovviamente, a coordinare il movimento della piazza. Beh, cosa certo, straordinaria, che si faceva a Valle Giulia, mi ricordo ancora, certo, se mi date 40 secondi ve lo ricordo, quando la polizia scappava come conigli. Vabbè, questo lo sappiamo. Grazie per queste istruzioni. Allora, cosa pensano di me i signori del Partito Animalista Europeo? Lo abbiamo appreso chiamandoli. Grazie per aver chiamato il Partito Animalista Europeo. La chiamata è gratuita. Resti in attesa. A breve le risponderemo. Partito Animalista Europeo, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che l'8 aprile c'è questa manifestazione davanti al Sole 24 Ore contro quel sobillatore, quell'essere malvagio di Cruciani. Volevo chiedere se è aperto a tutti, se posso venire pure io. È un evento aperto a tutti quanti, può seguire l'evento sulla pagina del Partito Animalista Europeo di Facebook. Sì, ma in sostanza con Cruciani come vi comporterete? Di chiedergli se riesce a essere una persona più civile e più umana. Guardi che quello è uno stronzo, parlare non so quanto serva. Si trova pienamente d'accordo in questo. L'unica maniera per cui si può fermare appunto un essere come Cruciani è fare capire a tutti quanti quanto sia incivile e quanto poco comunque sia la sua consapevolezza. No, lei ha detto giusto, stava dicendo ignoranza, perché ignoranza, vabbè, non volevo, ecco. No, lo dico io, ma lo stava per dire, da ragione, è un ignorante, ma è peggio di un ignorante. Sì, è un provocatore. Che poi, tra l'altro, ecco, una persona che si trova davanti a questo pazzo squilibrato con un salame, che cosa vuoi fare? Cioè, ha fatto la figura. Quindi è uno squilibrato. Fare. Sì, ha fatto la figura che sa fare, via. Te lo sciocco, va lì col salame, che vuoi dimostrare? Alla fine si è trovata dalla parte della preda, no? Ed è scappato come un coniglio. Comunque va bene. Lo stesso coniglio che aveva portato macellato in studio. Lui rappresenta l'uomo fallito. Altro che evoluzione della specie, dell'uomo cacciatore e così via. È un'involuzione, Luciani, è un'involuzione della specie umana. Quindi con un primate io non ci faccio discussioni, no? Beh, qui a Dubai pregano. Io ascolto la Zanzara. Siamo al top. Traffico. La Zanzara. Angelo da Brescia, vai Angelo. Ah, ciao, Luciani. Dimmi. Volevo dire una cosa io, perché lo lì di La Spezia, ma la fanno tanto lunga. Sì. Ma io, se fossi lui, vado a prendere un estintore e una bottiglia Molotov, gliela butto dentro e escono tutti come i rati. Cioè tu vai con la Molotov, con le bombe Molotov per sgomberare un appartamento? Una sola, non c'è bisogno di è l'estintore, prima che mi si bruci tutti i mobili miei, però. Sì, però amico mio, Angelo, io ti capisco, per carità, che uno gli viene la rabbia se vede la propria abitazione. Ma cosa vuol dire ti capisco? Ma vuoi scherzare? No, ti capisco, però se vai con le Molotov ti arrestano. Ah no, Parenzo ha detto che non ti capisce. Parenzo ha detto che non ti capisce. No, francamente, per quanto a uno gli possa, aperte virgolette, tirare il culo del fatto che gli hanno occupato casa, non è che capisco uno che arriva con una tanica di benzina e gli dà fuoco. No, francamente, una piccola bomboletta. Chiedo scusa, una ottima. Ma se ne costruivamo parecchi negli anni 70, effettivamente le lanciavamo contro le università, scappavano come conigli. Ottima tecnica, effettivamente. E allora, Angelo, non ho capito, come faresti uscire questi occupanti tu? Ma gli butto dentro una bottiglietta di Molotov. Però mi preparo il coso antincendio per non bruciare i miei mobili. Certo, non c'è dubbio. Intanto, ragione, in collegamento, credo, dalla Spezia abbiamo il signor Bolleri. No, è caduta la linea. Allora, Angelo, continua. Dunque, con le Molotov. No, volevo dire un'altra cosa adesso. Io ho fatto 8 anni l'operatore cinematografico, no? Sabato, domenica, giovedì, tutti quei giorni lì, no? E praticamente ho perso 8 anni della mia vita, perché di giorno facevo il muratore, alla sera facevo quel lavoro lì, la domenica, sabato, giovedì, così. Quando sono andato in pensione ho chiesto ai lavoratori dello spettacolo cosa mi si aspettava. Prendo 31 euro al mese meno 6 di tasse, e poi sento quelli lì che arrivano qua che pretendono questo e quell'altro. Ma maledizione, quelli stanno succedendo i miei soldi, i miei 8 anni di lavoro. Soldi. Non sono i suoi soldi. Anche i suoi, sì, certo. Anche i soldi delle tasse. Anche i soldi delle tasse. Non sono i suoi soldi. Come no? Sono anche i suoi soldi, come no? Allora sono anche i miei soldi, quelli che devo spendere per curare lui. Sono io che ho lavorato. Ma allora devo spendere. Ma io perché devo spendere i miei soldi per curare lei? Mi scusi. Mi sta anche antipatico, non ho capito. Perché devo spendere i miei soldi per curare questo signore qui? Non c'entra un cazzo. Perché si chiama Stato sociale, infatti, esattamente. Ma cosa c'entra lo Stato sociale con gli immigrati? Non c'entra una mazza. C'è una quota che è destinata. Perché c'è una quota che è destinata a ridurre l'impatto della radio. Ma lo fai parlare o no? Ma perché parlate in due? Oh, ma che non conoscete come si cazzo si fa la radio? Dai, forza. Allora, Angelo? Allora ti dico che a me, quando sento che fanno le manifestazioni, oggi ne ha fatte una ancora 300, là in mezzo al paese a fermare la strada. Ma lo sai che se vai al loro paese a fare così ti attaccano via. Ti devo raccontare una cosa, grazie Angelo. Parenzo, ti devo raccontare una cosa. Oggi mi ha consegnato, non so se sia vera questa cosa qui, un pacco, mi hanno consegnato dei pacchi di Amazon a casa, 2 romeni per uno di questi corrieri, no? Allora ci siamo messi a parlare lì, erano romeni, ero curioso, ma che fate, non lavorate, non lavorate, almeno. Ma no, non c'era bisogno, no, perché eravamo per strada. Allora, no. A un certo punto uno di questi qua mi ha detto: Ma sai che nel nostro paese dicono tutti noi ladri, in realtà qui vengono i ladri che vengono in Italia, romeni, sono quasi tutti rom, tu lo vedi da colore pelle nostro bianco, quelli un po' più scuro. Ho detto, beh sì, può darsi, è così. Poi ho detto, ma a casa vostra sono molto duri, guarda, se tu vai a rubare, io ho rubato qualche volta, sono riuscito a cavarmela, una bottiglia di whisky che costa, no, di vodka, mi ha detto, costa un euro, questo qua sicuramente un ubriacone, ti costa un euro, ti danno tre anni, mi dare tre anni di galera, ha detto, tre anni galera, così ha detto, che ti devo fare? Prendiamo esempio. Beh, la durezza, qualche volta la durezza delle pene serve. Antonio Pavia, dai. Buonasera Cruciani, senta, volevo, lei mi fugasse un dubbio, ma lei ci crede davvero a certe cose che dice? Ma per esempio cosa ho detto di così scandaloso? Allora, mi faccia capire una cosa, secondo lei sì. L'avere visibilità e il diritto ad un'intervista sì. No, non c'è diritto, non c'è diritto, non c'è nessun diritto all'intervista, sì, mai. Vabbè, ok. Secondo lei la visibilità data ai parenti delle vittime sì. Va messa sullo stesso piano? Cioè, chi l'ha detto? La visibilità data... No, io questo, le vittime non hanno difficoltà no, ad apparire, ho detto, e ci mancherebbe ancora, cazzo. No, scusami, calma, Antonio, molto calmo. Allora, io non ho detto, non ho messo sullo stesso piano il minutaggio concesso a Riina e il minutaggio concesso in generale ai familiari delle vittime. Ho detto semplicemente che la voce dei familiari delle vittime, in questo caso Borsellino, tutta la famiglia Borsellino, la famiglia Falcone, non ha grandi difficoltà, e ci mancherebbe altro, ad essere recepita dai mezzi di comunicazione, che siano radio, televisione. Insomma, sono lì anche per quello spesso, no? Spesso noi li chiamiamo, sentiamo cosa hanno da dire. Beh, non è che sono lì anche per quello, la loro testimonianza no, in serve... questo senso. No, ma appunto, ma non ho detto niente di scandaloso, mi sembra. Cioè, no, ho detto che non è questione di dare. Adesso qualcuno dice bisogna fare una trasmissione riparativa. Ma che cazzo c'entra la trasmissione riparativa? Ma io quello volevo dire, non c'è nessuna trasmissione riparativa da fare. È un'intervista a un tizio, condotta secondo alcuni bene, secondo altri male. Secondo me l'unico punto su cui si può discutere è quello di cui abbiamo parlato anche ieri noi, che è quello della trattativa. Altro che trattativa Stato Mafia, della trattativa Vespa. Figlio del mafioso, anch'esso mafioso peraltro. Questo è il punto. Che trattativa c'è stata? Fino a dove si è spinta? È vero che c'è stata una vera e propria trattativa anche sul dopo, anche su come è stata realizzata l'intervista, perché c'è stato bisogno del via libera. Di solito non si dà il via libera, no? Io dico, volevo ottenere un risultato e l'ha ottenuto anche a costo di far rivedere l'intervista al figlio del mafioso. E secondo me, lo dico qui e mi attirerò la canea, eccetera, ha fatto benissimo. Anna Maria da Roma, vai. Ma. Vorrei sapere, caro. Pronto, sì. Io vorrei sapere che cos'è che ha fatto. Sì, ma non parli in viva voce, però. Anna Maria, su, abbia pazienza. Non parlando in viva voce, mi sto dicendo che sono a casa e non si prende. Lo so, amica mia, però se non si sente non possiamo nemmeno discutere, no? Ma io ti sento benissimo. E io, noi non la sentiamo bene, invece. Allora, dimmi, dai, forza, dimmi. Allora, voglio sapere da te perché ha fatto benissimo. Ha fatto bene a fare l'intervista, punto e basta. È l'intervista a un personaggio che ha dimostrato anche la sua mafiosità, la sua omertà. Ha fatto benissimo. Quelli che parlano sono invidiosi. Questo è il punto. C'è l'invidia nel mondo, capito? L'invidia del fatto. Una... Ma no, lei che c'entra? Sto dicendo quelli che lo criticano, soprattutto i giornalisti. Soprattutto la maggior parte, non Parenzo. No, come non c'entra? C'entra benissimo l'invidia. Mi permetti di dire una cosa? Dimmi. Allora, noi dobbiamo parlare di una cosa molto semplice, siccome la radio. No, non sento niente, non mi va di sentire cose che non sento. Angelo da Catania, dai, richiamate questa signora. Angelo, vai. Questo c'ha la radio accesa, ragazzi, ma veramente non sapete un cazzo di come si chiama. Bisogna spegnere tutto, bisogna mettersi col telefono normale, altrimenti non chiamate. Angelo, vai. Cruciani, io vorrei sapere una cosa, ma chi cazzo era quello che parlava prima, che diceva che l'AIDS non esiste? È un tizio che è stato intervistato anche dalle Iene, che è un tizio dove vanno, cui si rivolge un naturopata. Sì. Ora voi date è laureato in economia. Noi non diamo nessuno spazio, noi l'abbiamo preso per il culo, o comunque l'abbiamo attaccato su queste cose. Dunque non ci rompere le scatole, Angelo. No, cioè, io non diamo spazio, diamo però spazio. Io ho potuto notare che i vegani, da quando voi ne parlate, sono aumentati. No, non credo proprio, e comunque chi se ne frega. Sono diventati anche più fondamentalisti questi vegani. Ma chi una, tiriamo... una pericolosità. No, lo erano già, tirano fuori, diciamo, il peggio in queste cose, e io sono contento di tirare fuori il peggio. Una pericolosità, guarda, io sono spaventato da persone chi? Come persone come queste, da questo naturopata, perché c'è gente che veramente gli dà ascolto. Questo può essere un problema effettivamente. Io non credo che ci sia qualcuno che si rivolge. Io non stavo dicendo che voi, la vostra trasmissione, chi ascolta la vostra trasmissione ascolta questo. Penso proprio di no, però io sono veramente, cioè, probabilmente qualcuno ci sarà andato e avrà interrotto la terapia antiretrovirale. No, non credo che ci sia gente. Se pensi che qualcuno andava anche dalle signore Marchi, quindi voglio dire, non c'è da stupirsi. Perché devi sempre mettere in mezzo le signore Marchi? No, perché stiamo parlando di un tema analogo, per cui vivendo qui una pozione, come era per l'AIDS, come potrebbe essere? Abbiamo in esclusiva per la Radio 24, già della Confindustria, un prodotto straordinario che qualcuno chiama semplicemente acqua del rubinetto. In realtà, al prezzo di 32.000 euro. Come 32.000? Mentre zitto, altrimenti starai male ora! Subito! 32.000 euro lo battiamo ora, lo deve bere lentamente per 4 giorni, d'accordo? Vabbè, ho capito, ma che cambia? Non cambierebbe niente poi. Se non lo bevi stai male, muori domani, d'accordo? Come 32.000 euro, scusa. Soltanto 32.000 euro in più! Diamo anche delle foglie raccolte per terra davanti alla stazione Termini, che sono foglie medicali! Le dovete medicali, mettere sugli occhi per una notte intera, starete benissimo domani, d'accordo? Mangia bene, mangia sano, salva una pianta, divora un vecchio. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presento La Zanzara. Culo ai vegani, stiamo mangiando bambi. E con il nostro amico argentino che mangia il porco, ascoltiamo La Zanzara in podcast. Siamo al top. Le incredibili affermazioni di Rosy Bindi sull'intervista al figlio di Rina, sentite. Io la cosa che vado ai matti è questa. Cioè, uno può criticare, può dire tutto quello che vuole, figuriamoci. Però criticare il modo in cui viene condotta un'intervista, Rosy Bindi, il governo. Lotti oggi, non so, il sottosegretario. Beh, no, lei non il, è governo. Ma beh, no, no, Bindi, mafia. Lotti, ho detto, pure lui ha detto qualcosa. Cioè, ma perché? Ma siamo ai pazzi, siamo ai matti. Ma il modo in cui viene condotto un'intervista da Vespa, interviene addirittura uno del governo, Rosy Bindi, che parla del modo in cui Vespa fa le interviste. Una cosa incredibile, incredibile. Da quella trasmissione sono partiti per due volte messaggi negativi su Casa Monica, che sono stati seduti comodamente in quel salotto come ci stanno ministri e come ci stanno attori o cantanti. E la mafia non è un fatto di costume, a questo non può essere ridotta, e ieri sera il gioco l'ha condotto Rina e non Vespa. Io veramente vado ai pazzi, cioè è la caratteristica di Porta a Porta ospitare un giorno i Casa Monica e l'altro un attore e l'altro ancora i politici. Che cazzo vogliono? Beh, li puoi collegare. Ma mi fa impressione, io devo difendere Vespa. Devo difendere Vespa, che non, secondo me, dal punto di vista politico, fa interviste quasi nulle, secondo me. Quasi nulle, quasi. Poi è un grandissimo professionista, naturalmente. Però con la Boschi, per esempio, ha fatto un'intervista totalmente sdraiata, secondo me. Dopodiché lo devo difendere. Non ho visto quella. Lo devo difendere di... sulla questione di Rina da questi attacchi ridicoli, ridicoli. Che Rina ieri ha parlato ai mafiosi, ha mandato messaggi intimidatori nei confronti di chi volesse collaborare con la giustizia, ai collaboratori e ai pentiti, che invece sono fondamentali per le inchieste e per assicurare la giustizia ai mafiosi. Questo è sicuro. Messaggi ai mafiosi, io vado ai matti. Allora, dove andiamo? Paolo da Roma, vai Paolo. Ciao carissimi, sono dimmi Paolo. Con una bestia. Primo, per la storia delle case, questa è una vera e propria merda italiana. Sì. Spero che a Parenzo un giorno all'altro gli sequestrino casa. Parenzo non è d'accordo sull'occupazione delle case. Mentre lei era al gabinetto, evidentemente, cioè nel suo ufficio. No, mi hanno fatto una muta adesso. Magari non ho sentito qualche minchia. Mentre evidentemente lei era a fare quello che doveva fare nel suo gabinetto, nel suo ufficio, non ha sentito. No, stavo in macchina. Uguale. Non vorrei parlare con te, vorrei parlare con... Neanch'io vorrei parlare con lei, ma avendomi lei tirato in ballo, le dico che mentre lei si stava facendo i cazzacci suoi, giustamente, non ha sentito quello che ho detto. Ti racconto questo, a me mi hanno occupato la casa due volte, ok? La prima volta mi è andata bene, perché ho fatto una minchiata, io ho preso una casa in un posto non tanto buono, diciamo, e la prima volta mi è andata bene perché lo sono riusciti a mandarli via prima che entrasse dentro casa. La seconda volta sono entrati dentro casa dicendo che loro avevano un figlio e che non potevo andare. È arrivata la polizia e dice: no, c'è il figlio, non si può fare niente. A me sta cosa che uno c'ha i figli e non può essere cacciato da una casa, la trovo pazzesca. Tu c'hai i figli, ma chi se hai occupato una casa? Cioè, non ti posso mandare via perché ci sono i minori. Ma chi se ne frega? Il mutuo, minchia, ci pagava anche il mutuo tutta casa. Fatti, renditi conto, io dovevo avere due minchioni arrivati da chissà che parte del mondo a rompere i maroni dentro casa mia. E allora sai che ho fatto? Una cosa bellissima. Che hai fatto? Ho voluto fare cose irregolari, sono andato dal giudice. Il giudice mi ha detto: dagli 1.000 euro, così questi ti levi dai coglioni. Io lo sai che ho fatto? Ho aspettato che arrivassero i primi... 1.000 euro, ti rendi conto? Allora... Sì, il giudice mi ha detto questo: dagli 1.000 euro, così si levano dai maroni. Allora io ho aspettato un attimo con calma, ho aspettato che arrivasse un bel weekend di maggio. Quelli appena sono usciti per andare a fare la spesa, gli ho preso tutta la roba, io l'ho buttata giù dalla finestra, ti giuro, e l'ho buttata per terra. Ho cambiato la serratura al volo, ero abbastanza pronto e veloce. Quando sono arrivati, sì. Il tizio mi ha messo le mani addosso, sì. E io e mio fratello gli abbiamo riempito di botte. E la moglie ha avuto il coraggio di chiamare i carabinieri perché gli stiamo... E ti hanno denunciato poi? Ti hanno denunciato o no? No, ma che sei matto? Che me hanno denunciato a me? E che ne so io? Tutto è possibile in Italia, eh? No, no, ringraziando Dio, no, non mi hanno denunciato. In un paese civile, tipo l'Inghilterra, li pigliano quando fanno queste cose qua. Hanno due scelte: o se la passano al gabbio, sì. Oppure se vogliono possono andare, gli danno la casa. Magari a volte danno anche la casa a queste persone qua, però magari gliela danno, che so io, a 200 km dal posto più vicino, che sia un posto civile, e dice: se volete questa, se no potete pure andare via dal paese. Va bene, Paolo, grazie, ciao. Allora, caro Parenzo, dopo essermi informato un po', ho deciso che potrei diventare, l'unica cosa che posso diventare è raeliano. Potrei diventare raeliano. Ti giuro. C'è una cosa fondamentale nella religione raeliana. Israel. È la libertà sessuale. È una cosa, un pilastro. Ma scusami, è quella degli alieni la religione raeliana? Abbiamo qui la guida nazionale del movimento raeliano che si chiama Marco Franceschini, che mancava saluto. Questo, buonasera Franceschini, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a voi. Buonasera, signore. A tutti coloro che ti ascoltano. Come grazie, stai? Come stai? Alieno, grazie. Allora, benissimo, bene. I raeliani in realtà che cos'è che adorano? Adesso vedrete, ascoltatori, che sono io il Marco. Gli Elohim, giusto? Adoriamo la libertà individuale. E quello d'accordo. La libertà individuale, e poi arriveremo anche a questo. Ma poi, voi partite dagli Elohim, diciamola tutta, come il divino, o no? Sì, ma non, assolutamente non adoriamo gli Elohim, è una cosa molto diversa. E che cos'è? Perché cos'è? Bell'ambiente. Allora, il discorso è questo. Sì, che, cioè, chi è il vostro Dio? Chi è il vostro Dio? Non, siamo atei. Siete atei? Siamo atei. Buono, questo è buono, già è una cosa positiva. Poi? Allora, noi crediamo che la vita sulla Terra sia stata creata specificamente da una civiltà extraterrestre. Ah, dagli extraterrestri. Allora, praticamente, finora si è sempre creduto o a un Dio soprannaturale o a un'evoluzione casuale. Sì, invece voi pensate che ci sono gli extraterrestri che hanno creato la vita sulla Terra? Noi, un raeliano pensa che la vita sulla Terra sia stata creata da una civiltà paragonabile alla nostra, che grazie a DNA e ingegneria genetica ha dato forma ad ogni forma di vita. E dove sono arrivati? Noi. All'inizio dove si sono installati questi alieni, questi Elohim? Sul nostro pianeta. Ma dove esattamente? Alla Confindustria, allora, dell'astronomia. No, dove? No, dove? Non lo so io. Dove? Allora, a Viale Monterosa. Secondo... A casa di Bargigia. Aspetta, dove? Palenzo, fai raccontare, ragazzi, è una cosa seria. Aspetta. Andate ai matti. Dai, alieni. Franceschini, è una cosa seria. Dai, sono pigliare per il culo. Sì, dai, scusate, dai, scusate. Va bene, va bene. Comunque, secondo i messaggi che portiamo, i primi laboratori che hanno installato sulla Terra erano proprio nella zona che oggi è vicino a Gerusalemme. Ah, in benissimo. Il famoso Giardino di Eden. Vi ricordate? Sì, più o meno. Ma ecco, voi mi dicono che volete mettere addirittura, avete chiesto allo Stato israeliano di mettere un'ambasciata ufficiale lì, l'ambasciata di Israele. Giusti. No? È lo scopo del movimento israeliano. Ah, lo scopo è quello di chiedere al governo israeliano di installare. Se pagano, magari glielo faccio. Un'ambasciata. Io fossi Non è proprio così. Lo scopo è quello di costruire un'ambasciata in una qualsiasi nazione della Terra. Sì, però principalmente in Israele. Un'ambasciata degli alieni, non ho capito. Certo, la prima ambasciata ufficiale dove poter raccogliere gli alieni. Una civiltà extraterrestre. Scusa, scusi. Ma io fossi il governo israeliano lo farei, facendo pagare carissimo, ma lo farei ovviamente. Scusa, Franceschini, ma se ne frega. Io voglio capire una cosa, ma il governo vi ha risposto, il governo israeliano? Sì, abbiamo fatto nel corso degli anni, abbiamo fatto varie richieste, abbiamo sempre ricevuto delle risposte negative, molto ufficiali, capisco, ma negative. Capisco che con tutti i cazzi che c'hanno. Ti immagini il presidente Netanyahu quando gli arriva la richiesta degli alieni, cosa dice? Un po' voluti, con tutti i problemi che ha? Si sono un po'? Se li sono anche un po' voluti questi problemi. Ah, pure, cioè gli israeliani si sono voluti questi problemi. Si sono, Un pochino sì, perché un se pochino, avessero preso la strada della pace, invece hanno intrapreso la pace con gli alieni, sarebbero. No, con gli alieni. La vedo un po' lontana, se dovessi scommettere oggi su questa ambasciata. Però io voglio capire una cosa, questa ambasciata vediamo se ci sarà. Voi pensate, sperate nell'arrivo degli alieni sulla Terra, nel ritorno degli alieni, o sbaglio? Noi stiamo preparando questo. State preparando. Quando potrebbe avvenire? Quando potrebbe avvenire? Cosa si può fare di utile per preparare l'arrivo di questi alieni? Allora? Beh, quello che stiamo facendo adesso. Cioè, ma come possiamo aiutarvi noi? Come potete aiutarci? Sì, state dando uno spazio anche adesso, col messaggio ma quando potrebbero arrivare, che ne so, tra 100 anni, 200 500, e quando arrivano che succede questi Elohim, allora, questi alieni? Tutto si svolgerà entro il 2035, questo è stato questo detto fin meno male, così non quindi prendo la pensione, saremo tutti vivi e vegeti, potremmo vedere questo, e una volta che bene così non pago l'Impici 2 allora, benissimo, e che succede dopo? Che succede? Beh, provate solo a immaginare l'impatto che potrebbe avere questo evento sulla nostra mentalità, sulla mentalità dell'umanità intera. Però, Franceschi, io ti seguo per quello che riguarda il sesso, adesso ne parliamo. Ci sarà ancora la Confindustria, ma, fate presto? Sole 24 ore ci sarà ancora o no? Ma, voglio dire, lei ci crede o no? Davvero che entro 2035 arrivano gli alieni o no? Forza, evidente. Beh, certo. Non a caso è 30 anni che seguo questa filosofia. Bene, ma questa filosofia mi dicono che essendo una vita normale, essendo estremamente libertaria, prevede una specie di poliamore, giusto? No, prevede quella che è lo sboccio dell'individuo, se vuoi, quindi l'autorealizzazione degli individui. Cioè, d'accordo, ma lei per esempio con sua moglie che rapporto ha? No, un rapporto alieno. Cioè, voglio dire, avete altri partner? Avete altri partner? Praticate l'amore libero? Fatele ammucchiate. Adesso faccio il professore là del. Ma molto meno del film di quello che fa la gente in giro normalmente. Fate un po' di scambismo o no? No, no. Giocate ogni tanto, come si dice in gergo, giocate con altre persone. Ma la vita è un gioco, no? La vita è un gioco. E quindi questo è il nostro campo giochi, questo pianeta, e quindi bisogna viverlo liberamente, questo campo giochi. Beh. Ma vorrei dire una cosa, che la libertà sessuale, noi abbiamo sempre l'idea di questa libertà sessuale come... Ma voi è vero che vi amate tutti, cioè gli uni con gli altri, vi amate tutti. Ma tutti chi? Israeliani. Ma quanti sono israeliani, oltre a questo signore e la moglie? Ogni essere umano dovrebbe amare gli altri esseri umani, siete d'accordo? Sì, ma quanti sono israeliani? Siamo circa 120.000 nel mondo. No, ma nel mondo. In Italia quanti? Siamo in Siamo presenti in 104 nazioni del pianeta. No, ma in Italia, no, quanti in Italia, sono? In Italia, in quante strutture sanitarie sono albergati i israeliani? Ma che gentile che è, parente. No, per carità, si figuri, guardi. No, però io voglio dire, sul sesso è fondamentale. Allora, io voglio capire... No, in Italia siamo circa 600. Io devo capire... 600 in Italia. Io voglio capire, prima di firmare qualcosa, di aderire a un movimento meraviglioso, perché io lo trovo meraviglioso. E vuoi diventare israeliano anche? Beh, potrei diventare israeliano, cioè, non ci sono impegni. Nell'ordine, quest'anno accademico 2016, sì, hai messo all'asta il sedere per 200.000 euro, sì, hai fatto incazzare dei gruppi di vegani, abbiamo fatto arrabbiare il Vaticano per altre ragioni e ora vuoi anche diventare israeliano? Beh, forse è la ci cosa sto più normale, se però, che stai facendo, se però, nell'ultimo periodo. Se però Franceschini mi assicura che all'interno del movimento israeliano c'è, come dire, un'estrema libertà sessuale, sì o no? Allora, la libertà che cos'è? È anche la libertà di scegliere l'astinenza, se uno volesse. Vabbè, d'accordo, oppure però... Oppure di avere una vita estremamente colorata. Perché nessuno di noi ha una vita sessuale standard. Abbiamo tutti. Ma voi credete diversi nella famiglia o no? Allora, crediamo nell'amore fra esseri umani e non nei contratti. Perché l'amore non può essere vincolato da un contratto firmato in una chiesa, ecco, o in un comune. Ecco, okay, quindi siamo contro il matrimonio tradizionale. Oh, questo mi piace, contro il matrimonio tradizionale. Gli alieni sono contro. Bene. È un'istituzione primitiva il matrimonio. Un'istituzione primitiva. Sì. Ci sono i presupposti, ci sono i presupposti. Voi siete per il poliamore, sì o no? Mi dica questo, mi attiri in qualche modo, mi attiri. Ma dietro... certo, ma siamo per le famiglie allargate se uno lo dovesse per esempio, le ammucchiate, vi piacciono le ammucchiate? Ci sono israeliani a cui piacciono, altri a cui non piacciono. Però vabbè, non esiste uno standard. No, non esiste uno standard. Vabbè, ma ci stiamo avvicinando, Parenzo. Franceschini, la voglio conoscere meglio, eh. Ci sentiamo domani intanto. Viva il raelismo. Come si dice? Raelismo? No, come si dice? Sì, raelismo, esattamente. Il raelismo. Parenzo, potrei avvicinarmi, ciao. Che mondo sarebbe senza la zanzara? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.